in primo piano. Le aperture sono diverse, dedicate per esempio ancora al terremoto, tsunami devastante che ha colpito Sumatra, il Corriere della Sera, intrappolati a migliaia sotto le macerie, ma c'è anche economia e politica sugli altri giornali. La Repubblica per esempio sceglie Tremonti attacca le banche, il no ai bond danneggia le imprese. Migliaia sotto le macerie invece La Stampa, ma anche Tremonti niente bond, uno sgarbo alle imprese, ora la Banca del Sud, mentre il Sole 24 Ore, incentivi auto pronti al bis, questa è l'apertura, e in centro pagina sotto il terremoto e tsunami, migliaia di morti nel Pacifico, c'è Tremonti difende i bond. Vorrei partire proprio su questo, da questo tema, e quello economico, ci sono tanti commenti e interviste, vediamo di leggerne qualcuno. Beh, innanzitutto il Sole 24 Ore dedica all'interno proprio un'intera pagina, Tremonti rilancia sui bond, il ministro, le banche fanno soldi con la finanza preparando la prossima crisi. E ci sono poi tutte le alterne vicende dei bond governativi ricostruite in infografica. Così anche il giornale, banche, così preparano la prossima crisi. Tra l'altro il giornale dà spazio alla storia di Giuseppe Pizzino. Chi è Giuseppe Pizzino? È un imprenditore, fatturato annuo 20 milioni. Da diverso tempo chiede a Unicredit un prestito di 3 milioni per rilanciare l'azienda. Che ha fatto? Ha fatto uno sciopero della fame alla sede di Unicredit a Milano, ed è ritratto qui con uno striscione in cui c'è scritto: è crimine più grave rapinare o gestire così una banca? E la vicenda di Giuseppe Pizzino, che tra l'altro è stata trattata dallo stesso Tremonti, l'ha chiamato, insomma ha sospeso lo sciopero della fame dopo che ieri Unicredit l'ha ricevuto, ma insomma è una vicenda abbastanza emblematica che abbiamo riassunta tra l'altro in un'intervista che La Stampa fa a Giuseppe Morandini. Giuseppe Morandini guida la piccola e media impresa di Confindustria. Liquidità e incentivi per tenere a galla l'arcipelago delle PMI. Questo è l'appello di Morandini, che dice: io non parlo di banche ma di sistema industriale, e il credito resta il problema numero uno in termini di tempi di risposta troppo lenti, di garanzie richieste troppo onerose. E ancora dice Morandini nell'intervista concessa a Marco Sodano: abbiamo lavorato molto insieme, abbiamo fatto passi avanti, bisogna tenere presente che la crisi è durissima anche per le banche, ma in questi mesi abbiamo siglato accordi, uno su tutti con Intesa San Paolo, che hanno riaperto il flusso del denaro verso le imprese. E questa è la strada giusta. Io ragiono così: se sono sott'acqua e non posso respirare, non mi preoccupo di quanto è lontano il fondo, ma di tornare in superficie. Quanto è lontana? Chiede Sodano. 30-40 metri, fuori di metafora, quel calo al 30-40% del fatturato con cui lottiamo tutti i giorni. Se ne esce senza annegare? Tornando alla metafora, ci vogliono le bombole e bisogna vedere che ossigeno ci mettiamo dentro, cioè liquidità, cassa per pagare fornitori, stipendi, manutenzione, per stare in piedi finché la tempesta non sarà passata. Insomma, questo è Giuseppe Morandini, che guida la piccola e media impresa di Confindustria. Il tema del rapporto banche-imprese è trattato un po' ovunque. Tra l'altro è interessante anche un editoriale del Foglio oggi, Il mondo governato dai banchieri, questo è il titolo. Inizia così: pensate sia giusto che il mondo sia governato dai banchieri? Ecco la sintesi perfetta, epigrammatica, a cui è ricorso ieri il ministro del Tesoro Giulio Tremonti per commentare il cortese ma fermo rifiuto dei T-bond da parte di Unicredit e Intesa. Però più avanti il Foglio conclude così l'editoriale: come affrontare il problema in Italia? Tremonti tenta prodianamente di aggirarlo, da una parte alleandosi con le fondazioni, dall'altro denunciando gli eccessi della finanza, ma il legittimo e forse utile piano di riduzione del peso delle banche sull'economia si scontra con un dato di fatto. I nostri istituti di credito, magari anche perché parlano poco inglese, non sono messi male. E i nostri banchieri non sono così malvagi, visto che Mario Draghi guida il Financial Stability Board, parlando in inglese, ed è candidato dal Wall Street Journal alla BCE. Il giusto obiettivo di riaffermazione del primato della politica va perseguito con mezzi più politici. Il suggerimento, paradossalmente, viene da un professore, Giavazzi, considerato vicino a un banchiere, Draghi. La politica, che si è affidato alla finanza per evitare di fare le riforme, faccia le riforme per evitare che governi la finanza. Questo il Foglio, in editoriale, presumibilmente insomma lo stesso Giuliano Ferrara può averlo scritto. A pagina 3. L'altro tema economico è quello dello scudo fiscale, fiducia sullo scudo, i rilievi di Fini, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, il sì della Camera, il Presidente avverte anomalie nell'iter, ma il testo va approvato. E tra l'altro c'è una curiosità rilevata dal Corriere della Sera, autovelox fiscale a Chiasso. Chiasso è uno dei punti della dogana tra Italia e Svizzera. Sequestri aumentati dell'80%, scrive Claudio Delfrate, sarà l'annunciato arrivo dello scudo fiscale, sarà la crisi economica che costringe ad attingere a ogni pozzo di denaro contante, sarà qualunque spiegazione, ma un dato è certo, alla dogana di Chiasso negli ultimi 5 mesi sono cresciuti dell'80% i sequestri di valuta in entrata verso l'Italia. Verso l'Italia, appunto, non verso la Svizzera. Denaro che rientra. Questo anche grazie a un sistema, quello dell'autovelox fiscale, che fanno la dogana di Chiasso da 2 giorni a tutte le auto in entrata e in uscita viene fotografata la targa. Un controllo istantaneo per verificare passaggi sospetti, ad esempio molto frequenti, e dunque controlli mirati. Lasciamo i temi economici e vediamo quello che troverete su tutti i giornali in ampio risalto. Anno zero, stasera la Daddario ospite, il Premier, Santoro mi porta voti, così dice il Corriere della Sera. C'è tutto il tema sul fatto che insomma Patrizia Daddario sarà ospite questa sera ad Anno zero, titolo provvisorio No Giampi, No Parti, Giampi e Gian Piero Tarantini, immediata la reazione di Flavia Perina, che è il direttore del Secolo d'Italia, onorevole del PDL, doveva essere della partita, ha detto io rispetto per la politica e per la dignità delle donne non andrò da Santoro, non andrà Nicolò Ghedini, dice il Corriere, non andrà nessuno del PDL, pare che Berlusconi abbia detto nessuno vada. I Tarantini, tra l'altro, si legge sul Corriere, diffida la RAI, bloccate la puntata di oggi. Dopo già contestato la puntata della scorsa settimana, Giampaolo Tarantini, accusato di corruzione, cessione di cocaina, favoreggiamento della prostituzione per aver reclutato ragazze da portare alle feste di Silvio Berlusconi, agli arresti domiciliari, dice, l'intera trasmissione ha seguito una strada precostituita senza alcuna possibilità di ribaltare o modificare una sorta di realtà già preconfezionata, e dunque vuole bloccare la puntata di oggi. Tra l'altro troverete vari commenti insomma sulla TV, la stessa Flavia Perina fa un'intervista al Manifesto e dire io sarei andata da Santoro a parlare del ruolo tra donne e potere, ma a questo punto non mi interessa il voyeurismo, non ci vado. Mentre invece paradossalmente ci sarà il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, che oggi in prima pagina sotto il titolo Gran Bordello Rai titola perché vado ad Anno zero. Alcuni lettori, dice Belpietro, mi dicono non andare, non bisogna andare a un programma così fazioso. Invece conclude Belpietro, non partecipare ad Anno zero vorrebbe dire mandare in onda il pensiero unico di una sinistra faziosa e forcaiola senza contraddittorio o repliche, per questo ci andrò. E poi c'è un'intervista a Fabio Fazio che è pronta a ripartire con Che tempo che fa, e che dice c'è questo clima in televisione, un'intervista a Repubblica, Silvia Fumarola, c'è questo clima in televisione perché la politica pensa di essere proprietaria di tutto, ma non è così. I fucili puntati su Rai 3, c'è un annoso problema, dice Fazio, si dà per scontato che la politica sia proprietaria del paese e i cittadini sudditi. E che cosa la offende? La violenza verbale di cui sono fatto oggetto persone, con nomi e cognomi. La rete per cui lavoro, gocce d'odio che vengono instillate tutti i giorni, disgustose e pericolose. Per concludere, insomma, il tema TV, e poi dopo il traffico passiamo ad altro, trovate intanto questa disfida un'intera pagina di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, la TV pubblica perde, Mediaset cresce. Sono l'analisi di tutti i bilanci, Rai in rosso per 600 milioni da qui al 2012. A Viale Mazzini 8.000 dipendenti in più rispetto al Biscione, le buste paga pesano 580 milioni, per la prima volta il fatturato Mediaset in Italia supera quello della RAI, merito soprattutto della Pay TV a cui la RAI ha rinunciato. Insomma, c'è tutta un'analisi economica con dati molto interessanti di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Di altro appunto parliamo dopo le informazioni sul traffico. In primo piano. Io sconfitto dalla mafia di Stato. È questo il titolo di una lunghissima lettera che occupa pagina 2 e 3 del quotidiano Il Fatto di oggi. La firma è di Luigi De Magistris. Vi ricordate? Una settimana fa lo disse proprio a questi microfoni alle 8.30. Disse: presto farò i nomi e i cognomi del perché mi sono dimesso dalla magistratura. Oggi Luigi De Magistris li fa in una lettera indirizzata al capo dello Stato, Napolitano. Presidente, lascio la toga anche per colpa sua. È una lunghissima lettera, molto accurata, molto molto amara, mi sembra anche. L'ho letta tutta, ne leggo qualche stralcio. De Magistris dice, rivolto a Napolitano: non so se ella condivide la mia analisi, ma dopo la strategia della tensione delle bombe del 93 le mafie hanno preso a istituzionalizzarsi, a penetrare nella cosa pubblica. Gli ostacoli più micidiali dell'attività dei servitori dello Stato sono i mafiosi di Stato, quelli che indossano abiti istituzionali ma piegano le loro funzioni a interessi personali di gruppi, di comitati d'affari, di centri di potere occulto. Che ci vuole, signor Presidente, per trasferire un magistrato per bene, un poliziotto curioso, un carabiniere zelante, un finanziere scrupoloso, un prete coraggioso, un funzionario che non piega la schiena? E poi avanti ancora dice: secondo me, signor Presidente, lei è venuto in Calabria, ha esortato i cittadini a ribellarsi al crimine organizzato. Perché allora non è stato vicino ai servitori dello Stato che si sono imbattuti nel cancro della nostra democrazia? Non ho mai colto alcun segnale da parte sua in questa direzione, anzi. Io sono stato ostacolato, mi sono state sottratte le indagini, mi hanno trasferito, mi hanno punito perché ho fatto il mio dovere. Signor Presidente, io credo che lei in questa vicenda abbia sbagliato. Lo affermo con enorme rispetto per l'istituzione che rappresenta, ma con altrettanta sincerità e determinazione. E conclude De Magistris: è per questo che con grande serenità mi dimetto dall'ordine giudiziario, dal lavoro più bello che avrei potuto fare. Lo faccio con un ulteriore impegno, quello di fare in modo che ciò che è successo a me non accada mai più a nessuno e che tanti giovani indossino la toga, ma non con la mentalità burocratica e conformista magistralmente descritta da Pietro Calamandrei, come vorrebbe il sistema di potere consolidato, ma con la Costituzione della Repubblica nel cuore e nella mente. È la lettera che, ripeto, aveva annunciato a questi microfoni, insomma aveva annunciato un gesto forte, pubblico. Lo trovate oggi nell'apertura del Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, la lettera di De Magistris a Napolitano, in cui spiega perché si dimette dalla magistratura. Trovate anche riferimenti a due vicende giudiziarie sulla Stampa, ne ho presa, ma c'è su tutti i giornali. Condannate Pollari a 13 anni, violazione dei diritti umani, torture, deviazioni, menzogne al Parlamento e alla comunità internazionale per il sequestro di Abu Omar, che fu prelevato a Milano e mandato in Egitto, insomma, in combutta con la CIA. È stato creato un sistema criminale il cui regista era il generale Pollari. Questo chiede l'accusa al pubblico ministero Armando Spataro a Milano, chiede 13 anni di reclusione. Invece, per quel che riguarda il dossier Telecom, scrive il Corriere della Sera Luigi Ferrarella: Tavaroli patteggia. Giuliano Tavaroli, che è l'uomo chiave dello scandalo del dossieraggio illegale praticato nel 97 al dicembre 2004 dalla security di Pirelli e Telecom, chiude i conti con la giustizia prima di iniziare il processo. Lo fa con un patteggiamento, 4 anni e 6 mesi, pena concordata con la procura, patteggiamento più messa a disposizione per lo Stato di 70.000 euro a titolo di profitto confiscabile. Ma insomma, state tranquilli, c'è l'indulto in arrivo. C'è anche, sempre sul Corriere della Sera, un'interessante conversazione tra Aldo Cazzullo e Antonio Di Pietro, perché non si parla di politica. Antonio Di Pietro racconta: io e il tumore alla prostata, sono solidale con il Cavaliere. Di Pietro dice: racconto per contribuire a rompere un tabù. L'urologo un paio di mesi fa mi stava facendo l'ecografia e mi ha detto: caro Di Pietro, in effetti qui c'è una massa tra la vescica e la prostata. Una massa? Sì, un tumore, benigno. 2 mesi fa sono stato operato alla prostata. Lo so che in Italia nessuno lo dice, racconta Di Pietro, ma io non mi vergogno, anche perché ho già fatto la prova del 9. Cioè, scusi, ci siamo capiti benissimo. E com'è andata? Chiede Cazzullo. È riuscita. E Di Pietro parla del, insomma, rapporto con la malattia. Tra l'altro dice: sono solidale con Berlusconi, che ha avuto lo stesso problema. Sulla malattia non si scherza, e se l'ha avuto ed è stato bravo a uscirne fuori completamente, mi congratulo con lui per la sua buona sorte. Insomma, rapporto tra personaggio pubblico e politica. È interessante comunque questa conversazione in cui Di Pietro racconta il suo dramma personale. Trovate molto anche di Roman Polanski, lo voglio ricordare perché è il sondaggio nostro. Uno stupro è uno stupro. Polanski non deve pagare, così si chiede Alessandra Bocchetti in un'intervista all'Unità. Alessandra Bocchetti, figura storica del femminismo italiano, autrice tra l'altro del libro Cosa vuole una donna, interviene proprio sulla difesa strenue che il mondo del cinema, della cultura mondiale ha fatto nei confronti di Polanski, dicendo: ma insomma, è uno stupro, scarseggiano, è vero, le firme solidali delle donne, a parte quelle di Jean Moreau, Fanny Ardant, Monica Bellucci. Però certo, si chiede e dice Alessandra Bocchetti, la solidarietà regista scorda il perché dell'arresto e momenti come questi svelano una distanza enorme degli uomini dalle donne. Vi chiediamo anche voi che ne pensate in questo sondaggio, ne parleremo alle 8:30, che ne pensate della solidarietà a Roman Polanski. Votate ovviamente sul sito. Solo una conclusione, ahimè drammatica, io tengo al Milan, forse lo sapete, un po' di Milan a Gheddafi, questo è il Riformista. Secondo indiscrezioni, le operazioni di cessione dell'associazione calcio Milan hanno avuto già inizio. Il 40% sarebbe stato già ceduto a chi? A Gheddafi, al Central Bank of Libya, Libyan Investment Authority, Libyan Foreign Bank. Già azionisti in Italia di Unicredit del 4,9%, lo dicono fonti finanziarie, ma per adesso ovviamente nulla di ufficiale. Per quel che riguarda il risultato sportivo, tralasciamo veramente, caliamo un velo pietoso. Ci fermiamo qui allora, alle 8:30, mi raccomando, il sondaggio su Roman Polanski, potete già votare 800 24 0024, riprendiamo con soldi e dintorni dopo GR24.